Siamo con Frida Forlani, cantante storica del Canzoniere delle Lame, che sarà sul palco per Femminologica 5 venerdì 2 settembre con uno spettacolo alle 21, il concerto spettacolo Noi siamo stufe, che appunto avrà come protagonisti Frida Forlani, Mirko Mungari, Guido Sodo e Simona Sagone. Intanto grazie Frida, certamente mi piacerebbe chiederti innanzitutto alcune cose sulla vostra storia, che voi siete partiti come Canzoniere delle Lame dal popolare per poi Certo. entrare invece in un ambito più specificamente politico. Assolutamente. Sì, il Canzoniere delle Lame è stato praticamente fondato da Ianna Carioli e Gianfranco Ginestri con delle ricerche sulla musica popolare già nel 67-68, fa conto. Quindi prima come ricerca, poi convinti ad esibirsi sul palco, hanno cominciato prima loro, poi hanno arruolato cantanti vari e musicisti. E io sono entrata nel 71, quindi molto giovane, comunque a 18 anni. E abbiamo quasi subito virato dal popolare, canzoni di lavoro, dalla loro ricerca, quindi con cui si erano esibiti i primi anni, al politico, decisamente politico, sia prendendo canzoni, non so, da Fausto Modè, da Nuovo Canzoniere Italiano, dal Canzoniere Internazionale, e anche con canzoni, molte canzoni d'autore, diciamo così, con cui il testo era composto da Ianna Carioli, che è sempre stata molto brava ed efficace sui testi, che noi musicavamo. Beh, abbiamo girato tutto il mondo, inutile dirlo, perché nel senso che allora si faceva così, si andavano a fare le tournée anche in Germania per i lavoratori, Germania e Svizzera per i lavoratori nostri emigrati, no? Siamo stati a Cuba. Non erano solamente tournée che tu vai a portare la tua musica fuori, spesso agli italiani. Per noi era anche un modo di imparare tantissimo sul resto del mondo, no? Perché conoscendo gli altri abolisci il razzismo, diventi molto più aperta e capisci e comprendi le altre mentalità. E questo è saltato sempre fuori. Noi cantavamo canzoni anche straniere, anche dedicate ad altri popoli, perché per noi anche l'internazionalismo, essere solidali, era un valore, era importante. No, molto interessante anche perché comunque voi sicuramente avrete venduto dei dischi, ma era una concezione della discografia che prescindeva, ritengo, dal divismo. Ah, beh, assolutamente, li vendevamo soprattutto nei nostri concerti, Sì. buona. Tra l'altro, noi molti dischi li abbiamo fatti anche per solidarietà. Abbiamo un 45 giri dedicato alle donne, che l'abbiamo dedicato all'UDI per i finanziamenti per le loro campagne. Italia-Cile abbiamo dedicato i proventi dati all'Associazione Italia-Cile dopo il golpe. L'Italia, abbiamo fatto un disco sul Vietnam e anche lì all'Associazione Italia-Vietnam per solidarizzare, per dare fondi alle associazioni che naturalmente ne avevano bisogno. Quindi assolutamente non abbiamo mai guadagnato nulla dai dischi, ma era importante essere presenti con le nostre E cose. prima in conferenza dicevi, un po' scherzando, un po' no, chiaramente, che tra di voi dicevate, tra qualche decennio ne parleremo semplicemente di queste canzoni come ricordo, come una Sì. cosa di com'era il mondo. Invece sono ancora, come si dice spesso, delle creazioni artistiche attuali, ma in questo caso pensavate che le cose. Sarebbero migliorate, cambiate, cioè abbiamo lottato tantissimo noi, no? Per l'uguaglianza, per gli stessi diritti. Sì, Beh, scherzavamo, dicevo. qualcosa, insomma, Qualcosa è è cambiato cambiato, sicuramente, indubbiamente, ecco. sì. Solo notiamo un po' una certa regressione, insomma, no? Certe cose che noi davamo per scontate, l'uguaglianza, gli stessi diritti, non l'uguaglianza tra uomo e donna, non siamo uguali ovviamente, però avere gli stessi diritti, questo sì, viene rimesso in discussione nel momento in cui c'è carenza di lavoro, stanno a casa le donne, bisogna fare più figli, quindi le donne perché devono studiare, perché devono continuare, no? A fare delle cose inutili a quello che sarà il suo ruolo nella società. Sono discorsi che stanno tornando fuori adesso, purtroppo, no? Quindi quello che noi diciamo, appunto scherzando, dicevo, avremmo cantato in futuro, sebbene che siamo nonne, paura non abbiamo, no? In realtà dobbiamo ancora dire, sebbene che siamo donne, paura non abbiamo e dobbiamo ri riconquistare o comunque attestarci su quello già conquistato. Non è finita, insomma. E queste sono le tematiche di questo spettacolo. Noi siamo stufe. Sì, siamo stufe che ci releghino solo nel ruolo di donna come angelo del focolare, come madre che deve fare per forza bambini, se non hai bambini. È una scelta che viene vista mal vista, perché una donna perché mai non dovrebbe desiderare di farli, no? Stanno rimettendo in discussione la legge sull'aborto. Nessuno di noi vuole abortire, no? Ma è uno strumento che in certi momenti la donna ha il diritto di poter usare. Ecco, invece anche questo vuole viene messo di nuovo, fra un po' rimetterà in discussione anche il divorzio, insomma, tentato varie volte. Dobbiamo tornare, diciamo, a essere vigili quantomeno, se non, e comunque anche in piazza, secondo me, per i nostri certo. diritti, per stimolare quello. Allora, per chi ci ascolta, diamo appuntamento a venerdì 2 settembre con un doppio appuntamento, perché alle 19 ci sarà l'incontro di UDI Bologna per parlare di lavoro, abusi, violenza di genere, eccetera, eccetera, e alle 21 invece ci sarà il concerto spettacolo, appunto, Noi Siamo Stufe, dove potremo sentire anche Frida Forlani Dai, in veste venite, di cantante. Dai, venite, mi raccomando, sarà una cosa sicuramente interessante, anche con le letture che Simona farà a lato, che ha scelto accuratamente come testimonianza dell'evoluzione delle nostre lotte in tutti questi anni. Decenni, si può dire. Benissimo, grazie Frida. Grazie a te.